Buongiorno a tutti, benvenuti al corso con l'Eltor a Roma. Oggi studiamo un po' di Mishnah. Oggi è la giornata in cui tra un'ora e mezza, circa alle ore 15, inizierà la campagna online per la raccolta fondi per queste attività e lezioni e ringrazio tutti voi che sono sicuro parteciperete per dare una mano. Nella Mishnah noi siamo arrivati nel secondo capitolo di Rosh Hashanah, al Mishnah numero 5 e stavamo parlando dell'arrivo dei testimoni, degli Edim, il loro arrivo, in questo caso parliamo di Gerusalemme, per appunto testimoniare davanti al Bet Din HaGadol, davanti al Sinedrio, riguardo al discorso di aver visualizzato la nuova luna, il rinnovo della luna, cosa che indicherebbe la possibilità di santificare il Rosh Chodesh, il nuovo mese, santificare il mese e fissare il Rosh Chodesh, il capo mese. Vediamo cosa ci dice la Mishnah. Chatzer Gdolah Hayetah Birushalayim. A Gerusalemme vi era c'era un grande cortile, Chatzer, un cortile. E aveva un nome, era come una piazza con un nome, Bet Yazek Aitani Kret, si chiamava Bet Yazek. La parola Yazek, i commentatori dicono, e ne parla la Gemara, sarebbe legato a un termine che significa un recinto fatto di pietre. Quindi era in realtà un cortile recintato e da qui il nome. In questo luogo, in questo cortile, in questa piazza, Ulesham Kol Ha'edim Mitkansin. Era proprio in questa piazza in cui si riunivano tutti coloro che pensavano di poter dare una testimonianza. Quindi tutti gli Edim, tutti i testimoni del Rosh Chodesh. E nello stesso luogo, nella stessa piazza, Ubed Din Bodkim Otam Sham. Il Bet Din esaminava questi edim lì nello stesso luogo. In che cosa consiste questo esaminare? Questo lo vedremo nella prossima Mishnah. Ora vediamo. La Mishnah continua a descrivere la situazione. Useudot gdolot osin lahem. Gli si preparava per questi potenziali edim, testimoni, gli si preparava gli si facevano trovare dei pasti, delle seudot, dei pasti, dei banchetti, quasi sembra più un banchetto che un semplice pasto, cioè portavano del cibo che era preparato per queste persone, perché, motivazione molto semplice e pratica, Bishvil sheyehu regilin lavo, perché si abituassero a venire, e cioè chiunque pensa di aver visualizzato qualcosa che può essere valido potenzialmente come testimonianza per il Rosh Chodesh, che sia invogliato automaticamente a venire e a partecipare a dare l'Eidut. E chiaramente il pensiero di trovare un bel banchetto in questa bella piazza di Gerusalemme aiuterebbe le persone a convincersi più facilmente a fare il viaggio o il percorso che dovrebbero fare per arrivare. Riguardo ad un aspetto di cui abbiamo già approfondito alcuni aspetti di questa cosa, mi riferisco al problema di portare testimonianza di Shabbat, cioè se le persone devono giungere in questo luogo durante lo Shabbat, da un posto che è al di là del confine dal quale si può, oltre al quale non si può più camminare durante lo Shabbat, abbiamo detto che i maestri hanno permesso a queste persone di camminare oltre il confine delle 2000 amot cubiti fuori dalla città ed arrivare al luogo in cui si dava la testimonianza. Ora, la domanda è: una volta arrivati alla destinazione, visto che la persona ha già percorso più di quanto avrebbe dovuto percorrere durante lo Shabbat, gli è permesso ora muoversi ulteriormente oppure teoricamente dovrebbe essere limitato a quel luogo in cui è arrivato e non potersi muovere oltre. Cerco di chiarire. Durante lo Shabbat noi abbiamo una mitzvah, un divieto di uscire fuori dal nostro luogo. Come si definisce il nostro luogo? Innanzitutto la città. Al di fuori della città c'è un limite massimo, che sono 2000 amot, 2000 cubiti. Se qualcuno vuole camminare all'interno della città, può camminare quanti chilometri vuole, rimanendo dentro il luogo abitato. Uscendo fuori dal luogo abitato, ha questo limite di 2000 amot, quindi non può andare oltre. Se dovesse andare oltre, è limitato a 4 amot quadrate, circa 2 metri quadri, cioè la zona immediata dove si trova. È lì che deve rimanere finché esce Shabbat. La domanda che riguarda noi è se queste persone che sono Eidim, quindi con il permesso dei maestri, sono usciti fuori dal luogo in cui avrebbero dovuto essere, dal quale avrebbero dovuto essere limitati, ora che sono giunti a destinazione, devono rimanere fermi lì perché sono andati oltre il limite? Oppure potrebbero anche girare per Gerusalemme? Allora la Mishnah affronta questo problema e dice: Barishonah, in origine, all'inizio, Lo hayu zazin misham kol hayom, non si muovevano da quella piazza tutto il giorno. Perché? Essendoci arrivati durante lo Shabbat, essendo usciti fuori dal proprio luogo, appunto di nuovo, non possono andare oltre. Tutta la piazza è un unico luogo perché è un'unica piazza recintata, quindi potrebbero girare in tutta la piazza, ma non di più. Possono andare a vedere tutti i buffet che hanno preparato nel banchetto, ma non più di questo. Questo in origine. Poi uno dei grandi capi del Sinedrio, Rabban Gamliel Hazaken, il primo Rabban Gamliel, che si chiama Rabban Gamliel Hazaken l'anziano, stabilì, itkin, stabilì, istituì che che potessero percorrere ulteriori 2000 cubiti, come se partissero dal loro posto originale adesso, verso ogni direzione. E cioè, visto che loro sono giunti con il permesso dei maestri, non trasgredendo le parole dei maestri, di conseguenza noi consideriamo come se loro fossero sempre rimasti all'interno della zona per loro circoscritta. E ora hanno, come qualsiasi altra persona, 2000 amot che possono percorrere. Ora la Mishnah dice: questo non riguarda solamente gli Edim, questi testimoni del Rosh Chodesh, bensì si applica anche ad altre situazioni specifiche. Quali sono? Ela, velo Elu Bilvade, non solamente questi, bensì Ela solamente bensì Af Chachamah, anche l'ostetrica. Habba'al Yaled, che viene per far partorire, la levatrice che viene per far partorire e quindi esce fuori dal limite, se fosse necessario. Ve'habba', ulteriore situazione, ve'habba' le'atzil, qualcuno che viene per motivi di soccorso, per soccorrere, perché sia stato un problema di un incendio, minadleika, un minagais, oppure un problema di un assedio, quindi un problema di pericolo militare. Un minhanahar, oppure per causa di un'inondazione, problema della rete idrica o del fiume, qui nahar vuol dire fiume. Un minamappolet, oppure da un crollo, deve soccorrere per un crollo che è avvenuto. Hare elu che anceha ir. Noi consideriamo tutte queste persone, dalla levatrice a questi soccorritori, che arrivano in un determinato luogo durante Shabbat, anche se hanno dovuto percorrere oltre il limite, ma laddove arrivano a destinazione, questa destinazione è considerata il loro luogo, è considerato il loro luogo e possono avere da qui 2000 cubiti per percorrere. Ve'eshlem alpaim amah lechol ruach, e possono percorrere 2000 cubiti in ogni direzione come se fosse questa la loro città. Perché? perché visto che hanno fatto quel percorso, non trasgredendo, ma perché la Torah permette di trasgredire lo Shabbat, in tutti questi casi stiamo parlando di pericolo di vita, e di conseguenza la Torah dice bisogna profanare lo Shabbat per salvare la vita, allora l'hanno percorso questo percorso con il permesso, non trasgredendo, e di conseguenza riconosciamo loro la zona percorribile dal luogo in cui si trovano ora. Concludiamo oggi qui e nuovamente vi ricordo che tra poco più di un'ora ci sarà la campagna online charity.com/Roma. Metterò anche nei commenti il link. Tutti gentilmente fate quello che potete per darci una mano. Grazie e chazakim u bruchim tiyu.